Non so se abbiate seguito all'inizio della settimana passata la dotta polemica che dopo una manifestazione islamica di domenica scorsa a Torino ha coinvolto un certo numero di intellettuali nostrani di ambo i sessi sull'importante tema del chador, o come pare si debba meglio dire con l'originario termine arabo del hijab, quel velo senza il quale le donne musulmane di onesti costumi non possono apparire in pubblico e dietro cui per estensione vorrebbero celare i loro lineamenti anche nella fotografia che compare sui loro documenti d'identità. E tutto la polemica perché Rossana Rossanda, in un momento di comprensibile esasperazione, ha buttato al vento le tradizionali cautele della correttezza politica per scrivere che a suo avviso quell'indumento esprime una volontà di discriminazione sessista, oltre che una bassa concezione del ruolo della donna nella società, per cui a una devota dell'islamismo desiderosa di indossarlo in effigie o di persona, il consiglio migliore da dare sarebbe quello di mettersi a pensare con la propria testa, se ci riesce, di non lasciarsi fregare. È un ragionamento che a me è sembrato piuttosto ineccepibile, eppure non sembra aver raccolto molti altri consensi. E in effetti, poveretta, la Rossanda viene annodette di tutte. Sul fronte femminile ci sono state, oltre a tutte quelle che hanno invocato il rispetto della volontà di scelta, per esempio Carmen Viera, per dirne una, ci sono state quelle che hanno detto con l'aria di aver scoperto chissà che il problema è un altro, che è sempre una bella osservazione, e chi, come quella nota vestale del laicismo libertario che è la Emma Bonino, ha osservato che non è il caso di far tanto chiasso per un foulard, perché in fondo anche sua madre se ne mette uno quando va in chiesa. Su quello maschile si raccomanda l'intervento di Giuliano Zincone sul Corriere della Sera del 2 novembre, per cui l'invito della Rossanda, pur giustificabile da un punto di vista laico, pecca sul piano della tolleranza, perché spetta ai fedeli e soltanto loro decidere di ribellarsi alle antiche regole, e c'era una certa qual propensione a negare l'identità altrui, una sottile pretesa egemonica che è tipica peraltro della sinistra nel suo complesso. È come a dire che l'invito a pensare con la propria testa rappresenta una grave sopraffazione su chi per un motivo o per l'altro preferisce far pensare la testa di qualcun altro. Io non pretenderò certo di entrare in un dibattito tanto elevato, oltretutto ho la vaga impressione che non ci sia una soluzione possibile. Dando per scontato, e a me sembra scontato, che il chador, il hijab e tutti gli altri paludamenti sotto cui è costretta a celarsi la metà del cielo nel mondo islamico, dando per scontato che esprimano una concezione tipicamente sessista e proprietaria, che è tipica peraltro di tutta la cultura mediterranea, islamica, cristiana o pagana che sia, resta vero che possono essere vissuti dalle interessate in tutt'altro modo, per esempio come affermazione di un'identità di cui essere orgogliose. L'osservava sul manifesto di ieri anche Adriana Buffardi, e d'altronde sappiamo che i simboli, come le parole, si possono sempre ricategorizzare e riciclare. In ogni caso sappiamo che ci saranno sempre degli esseri umani, donne o uomini, pronti per motivi loro ad accettare dei comportamenti che agli altri sembrano e forse sono davvero nocivi per chi li accetta. In questo caso che fai? È un po' l'eterno problema di tutti i proibizionismi. Gli vieti di fare quello che vogliono per il loro stesso bene, o dai fiducia alla loro libertà e alla ragionevolezza che ognuno si spera dovrebbe sapere esprimere una volta libero di farlo? Personalmente, voi lo sapete, io credo che valga sempre la pena di scommettere sulla libertà. Ma so che la tendenza opposta, quella di vietare tutto quanto non si intende rendere strettamente obbligatorio, storicamente è quella vincente. E non si può neanche dire che ciascuno faccia quel che vuole, che se un danno sono cavoli suoi, perché i danni che i singoli si autoinfliggono hanno sempre un costo sociale per tutti. Resta il fatto che nessun rispetto dell'identità altrui può impedire a chiunque di dare a chiunque altro nei debiti modi un sincero consiglio, e che tutto questo discorso non ha niente, ripeto, non ha proprio niente a che fare con il problema del diritto delle donne islamiche a farsi fotografare velate sui documenti d'identità. Mi spiego. Se è vero come è vero che chiunque voglia portare sempre il velo fuorché nel seno della famiglia deve essere libero di farlo, è ovvio che deve poterlo fare anche in effigie, e non vedo come qualcuno glielo possa impedire. Non, ma non vedo neanche come questo ovvio diritto possa essere limitato alle donne di fede islamica. I diritti non si scappa, sono diritti. E secondo quella teoria liberale che tanti di questi giorni non si stancano di citare, sono individuali e universali. Sarebbe ben strano, sarebbe roba da far rigirare nella tomba le ossa di Montesquieu se in una società liberale e democratica qualcuno avesse il diritto di fare qualcosa, mettersi il velo, toglierselo, fa quello che, o farne quello che vuole, perché fa parte di un gruppo speciale, per sesso, religione, nazionalità o altro. Da che mondo è mondo se un gruppo particolare rivendica un diritto e la comunità ritiene di doverglielo garantire, esso diritto si estende a tutto il corpo sociale. E l'idea di libertà religiosa nacque nel secolo XVIII, tra il XVII e il XVIII, per difendere le minoranze, ma non fu limitata alle minoranze, e ci sarebbe mancato altro. E vorrei proprio vedere chi avrebbe il coraggio, una volta riconosciuto il diritto alle varie Fatima, Laila, di esibire sul passaporto una foto velata, chi avrebbe il coraggio di negare a me e alla Came, se lo desiderassimo, di fare altrettanto. Non siamo matti? È anche vero? È anche vero, purtroppo, che coloro che hanno manifestato domenica scorsa a Torino non avevano in grande maggioranza la minima intenzione di rivendicare il diritto delle donne musulmane a mettersi liberamente il velo. Essendo in gran parte uomini musulmani, il diritto che rivendicavano era quello di poterglielo imporre, il che, ammetterete, è tutta un'altra cosa. Esattamente come quegli altri 200.000 spiriti religiosi che in quasi contemporanea manifestavano a Roma davanti al Papa, non chiedevano che i giovani avessero la libertà di frequentare la scuola che preferissero, ma chiedevano il potere di mandarli a spese dello Stato in quella che avevano deciso loro. La libertà cui certa gente ambisce è quasi sempre quella di costringere gli altri a fare quello che vogliono loro. In tema di libertà, noi laici, le sinistre, avremo le nostre brave contraddizioni e figuriamoci, ma i clericali da destra si dimenticano sempre di spiegare che nella libertà che invocano non è mai compresa quella altrui.